In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. E a questo punto gli apostoli gli domandano: ma come mai allora Mosè ha permesso invece il ripudio, l'atto di ripudio per appunto poter divorziare? E Gesù dice: per la durezza del vostro cuore, perché da principio non era così. Allora gli apostoli dicono a Gesù: ma a questo punto allora non conviene proprio sposarsi. E Gesù non è che contraddice questa affermazione, ma gli dà un altro significato, perché Gesù dice, se, gli apostoli dicono, se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Cioè gli apostoli stanno dicendo, se io non posso divorziare, ma allora forse è meglio che non mi sposo, cioè non è tanto conveniente sposarsi, perché insomma poi la vita è difficoltosa, tante volte lo sappiamo, le relazioni non sono facili, no? Se così stanno le cose è meglio non sposarsi. E Gesù, guardate che cosa risponde Gesù: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Ecco, Gesù non ci sta invitando a dire: ah, il matrimonio è proprio una cosa pesante, non conviene sposarsi, fai la vita che vuoi. Vivi con le donne che vuoi o con gli uomini che vuoi. No, non è questo ovviamente il discorso di Gesù. Il discorso di Gesù è un altro. Gesù ci vuole far capire la bellezza della consacrazione a Dio. Perché la bellezza della consacrazione a Dio? Non perché il matrimonio non sia bello, anzi, il matrimonio è bello, bellissimo, una bellissima vocazione. Tuttavia la consacrazione a Dio è come un anticipo di paradiso, è quello che sperimenteremo tutti quanti noi in cielo. Questo non vuol dire che non bisogna sposarsi più, però è vero che tante volte la vita su questa terra per le persone consacrate è veramente una bella cosa, è veramente una vocazione da apprezzare e tante persone dicono, quando ci incontrano, le suore ci dicono: ma voi vi siete tolto il meglio della vita, no? Perché pensano sempre a una cosa sola, no? Ovviamente si sa qual è questa cosa. Ma Gesù ci vuole far capire che la bellezza della vita è proprio nelle relazioni di amicizia, pure in cui si sperimenta veramente questa unione tra di noi e con Dio. E io ho fatto questa esperienza proprio quest'estate, abbiamo avuto un gruppo di sacerdoti con noi e abbiamo fatto una settimana di spiritualità e di amicizia. E veramente alla fine di questa settimana eravamo tutti contentissimi, sia i sacerdoti che noi abbiamo condiviso quanto questo ci ha arricchito. Allora, qual è l'invito di oggi per questa giornata? È riuscire a capire la bellezza della consacrazione sicuramente, ma la consacrazione non per motivi umani, perché non conviene sposarsi, perché se no non posso divorziare, ma capire la bellezza dell'essere uniti a Dio e uniti tra di noi in modo puro. Ma l'invito di oggi non è soltanto questo, è vedere come posso io vivere una vita, se il Signore mi chiama al matrimonio, una vita in cui io apprezzo veramente il fatto di stare sempre con la stessa persona. Perché? Perché non sto sempre con la stessa persona, sto ogni giorno con una persona nuova, perché tutti cambiamo ogni giorno. Quindi apprezzare la persona che il Signore mi ha messo accanto e cercare di guardarla sempre con occhi nuovi, senza vedere soltanto i difetti, soltanto le cose che non vanno, e dare la possibilità al mio coniuge, alle persone con cui io, il Signore mi ha messo accanto, con le quali io vivo, la possibilità di essere se stesse e di rinnovarsi. Buona giornata.